cartellone di Elisabetta Fiorito. Questa voce straordinaria, la voce di Maria Callas in un ruolo a lei comunque un po' ostico, quello lì della Carmen, un mezzo soprano, invece lei era un grande soprano, insomma. Tanto per lanciare il nervosismo che si sente in questi giorni, soprattutto dalle parti di Milano, dalle parti del teatro alla Scala, perché lunedì c'è la grande apertura di stagione e per noi ci sarà il grande Armando Torno. Buongiorno Armando. Buongiorno a voi, ma grazie per l'Armando, diciamo pure il piccolo Armando. Tu conduci per Radio 24 una trasmissione proprio sulla lirica che si intitola Musica Maestro e so che c'è un appuntamento speciale in questa settimana. Sì, domenica sera alle 21 abbiamo come ospite gli Lisner e insieme a lui sonderemo un po' questa prima con tutte le aspettative perché è una prima un po' insolita. La Carmen è un'opera anche leggermente osé, un'opera un po' sfacciata, un po' sensuale, un po' diversa da quelle che ci ha abituato la tradizione del 7 dicembre. Non è Wagner, non è Verdi, non è nemmeno tutto sommato un Rossini. È un'opera dove si strizza l'occhio all'ascoltatore, dove si ancheggia, dove un'aria come quella che hai fatto sentire della Vanera è chiaramente un inno alla sensualità. È chiaro che alla Callas andava stretta, ma va stretta a molte cantanti, perché bisogna essere un po' nei panni della Sigaraia, essere pronte così a mostrare quella piccola lussuria che è necessaria per realizzare l'opera. E chiaramente bisognerà vedere se lunedì sera questa magia della lussuria e della sensualità della Carmen potranno sposarsi con la regia, che ovviamente è molto discussa, e almeno è già discussa prima che si veda. Bisognerà aspettare vederla, bisogna aspettare, insomma, le scene, bisogna sentirne l'odore prima di giudicarle. E poi bisognerà vedere un po' l'accoglienza del pubblico della Scala. Io ricordo semplicemente che un grande filosofo come Nietzsche diceva: preferisco la Carmen alle opere di Wagner. Chiaramente era una battuta, però dà l'idea di quanto si possa dire e si possa fare con quest'opera che, ricordo, è una delle più rappresentate al mondo, se non l'opera lirica più rappresentata in questo momento. È un'opera che effettivamente ha avuto diverse fasi, vari momenti. Bizet la terminò sostanzialmente nel marzo, quando andò in scena, del 1875, lui nel giugno morì. E poi ebbe vari rattoppi, varie sistemazioni. Per Vienna misero qualche censura e qualche sistemazione, e di volta in volta si cambia, eccetera. Si vedrà un po' la scelta di Barenboim, si vedrà anche il cast, i cantanti, ad esempio questa interprete georgiana della Carmen non la conosciamo ancora, è una ragazza di 25 anni dalla voce portentosa, vedremo cosa saprà fare. Barenboim sceglie, diciamo così, per quel poco che ho potuto sentire, una linea di interpretazione molto metallica, meno romantica, vedremo se darà dei buoni risultati. La regia probabilmente scoppietterà un po' qua e là, vedremo se questa donna è la rappresentante di tutte le donne del sud o se è semplicemente una Carmen che in qualche modo diventa stilizzata, particolare, eccetera. E c'è la regia e costumi di Emma Dante, una scelta un po' particolare. È questo che ti volevo dire. Emma Dante è una brava regista, niente da dire. E bisogna vedere però se riesce a sposare quest'opera e se riesce a farla amare dal pubblico della Scala. Senti, il fatto di Carmen un mezzo soprano, questa scelta di Bizet, no? In contrasto con Micaela che invece è un soprano, certo. Rappresenta una trasgressione proprio del tipico del personaggio. Tu che sei un esperto, noi ti facciamo anche delle domande per capire meglio l'opera. No, è una trasgressione proprio per aumentare la sensualità. Il mezzo soprano può avere quelle mezze misure, quegli ammiccamenti che il soprano non può permettersi. In un'aria un soprano deve sostanzialmente tenere in ordine le note, non può, diciamo così, commuovere con delle deroghe. Un mezzo soprano in fondo ce la può fare. E quindi la scelta della Carmen è anche la scelta, diciamo così, di una persona che entra nei panni più larghi di una semplice cantante. È anche un po' attrice, è anche un po' provocatrice. Deve cercare di catturare l'attenzione, non dimentichiamolo che deve ancheggiare al punto giusto. Certo, la regia pare voglia dire: ma no, tutte le donne del sud hanno queste caratteristiche. Insomma, lo vedremo in scena lunedì sera, ecco. Alle 6 si apre il sipario. Alle 6 si apre il sipario e tu invece vai in onda sempre con Musica Maestro, ci accompagni da anni oramai, e domenica alle 21 c'è però un'intervista particolare. Sì, con il sovrintendente di Snair, come dicevo, al quale rivolgo domande sugli allestimenti. Ovviamente fa una serie di considerazioni, ma è giusto sentire un testimone che ha scelto quest'opera con tutto l'orgoglio francese. Parlerà quindi più che di Carmen, di Carmen, come la pronuncia la francese. E del resto, con un certo orgoglio, può dire che in fondo è una delle opere più amate, anche perché questa sensualità continua a piacere il pubblico dopo 100, e fate il conto voi degli anni, 125 più 9, quindi sono quasi 135 anni, 134, insomma, che questa donna seduce ancora il pubblico. Armando, un'ultima domanda, tu che sei un esperto, no? Tu hai detto prima, Nietzsche diceva meglio la Carmen che Wagner, ma noi potremmo dire lo stesso, perché io personalmente preferisco Bizet oppure Rossini. Ecco, questa adesso merita una bacchettata, questa cosa, indiretta o no, ma io devo dire no, Wagner è praticamente la Divina Commedia della musica, la tetralogia è paragonabile a opere come quelle di Shakespeare, eccetera. La Carmen di Bizet è un'opera piacevole, è un poemetto che si legge in allegria. Per carità, viva Wagner e viva anche Bizet, però non confondiamo i ruoli. Bizet è un momento di distensione, un ammiccamento, è come dire un colpo d'occhio dato con soddisfazione. Wagner è meditazione, Wagner è pensiero, Wagner è addirittura una considerazione sulle nostre radici, sul nostro futuro, eccetera. È chiaro che Nietzsche, per far arrabbiare Wagner, scriveva questo, convinto che poi l'avrebbe letto. E effettivamente Wagner lo venne a sapere e se la prese anche, ma lo venne a sapere un po' tutto il mondo, perché Nietzsche, non dimentichiamoci, che poi diventerà famosissimo di lì a poco. E questa considerazione però non ci deve autorizzare a dire che la Carmen è meglio di Wagner. Diciamo che in certi momenti è più gradevole, come che so io, la compagnia di una bella donna è decisamente meglio che cavarsi un dente in certi momenti della vita. Insomma, con questa metafora ricordiamo, abbiamo sentito il nostro Armando Torno che da anni e anche quest'anno conduce Musica Maestro, che va in onda alle 21 la domenica, per saperne di più e sapere e conoscere le opere liriche, e che sarà per noi, per Radio 24 e per Il Sole 24 Ore, alla prima del Teatro alla Scala il 7 lunedì alle 6 di pomeriggio, giusto? E prometto di essere imparziale nei giudizi, anche se la musica sarà metallica e anche se Emma Dante lascerà degli spazi, ovviamente, di critica, probabilmente. Ecco. Perfetto, grazie Armando. Grazie a te, ciao ciao. Cartellone. Sola, sola al mondo, perduto il padre, inghiottito nelle fredde viscere della terra. Dove sei, padre? Ti mancano le forze di condurre fino a me la tua immagine? È l'ora, la nostra ora, l'ora in cui t'hanno ucciso tua moglie e chi con lei ora dorme nello stesso letto, il tuo letto regale. E quella che avete sentito è Elisabetta Vergani nei panni di Elektra di Hugo von Hofmannsthal, e in scena al Teatro Buratto, perché prosegue un progetto di Farneto Teatro dedicato alle eroine del mito. Quindi c'è stata Cassandra, c'è stata Medea, Antigone e alla fine Elektra. Allora, buongiorno Elisabetta Vergani. Buongiorno. E buongiorno. Buongiorno anche a Marina Cavalli, docente di letteratura greca e letteratura teatrale della Grecia antica all'Università degli Studi di Milano. Buongiorno. Abbiamo sentito in scena in questo momento al Teatro Verdi di Milano questo spettacolo, Elisabetta Vergani, il mito di Elektra, innamorata un po' di suo padre Agamennone, possiamo dire questo? Sì, beh, insomma, sì, possiamo dire così. Sì, Elektra è un personaggio che è molto, diciamo, molto scolpito nella pietra. È un personaggio che ha come unico riferimento, come unico valore, come unica motivazione della vita il fatto di ricordare, essere custode della memoria del padre ucciso da Clitennestra, la moglie e madre di Elettra, e la sua, diciamo, quello che la tiene in vita è il sentimento di vendetta, cioè vendicare l'assassinio appunto del padre. E che cosa vuol dire interpretare un ruolo di una donna che cerca vendetta? Quindi un'eroina abbastanza particolare e un po' dura come tutte le eroine poi greche. Beh, ci vuole molta, molta preparazione tutte le sere prima di andare in teatro, insomma, bisogna essere molto, molto forti e determinate, soprattutto avere una pietra dentro il cuore, questo non è facile. Però voglio anche dire che è vero che il sentimento che anima Elettra è il sentimento di vendetta, ma nel nostro spettacolo, e comunque quello che interessava molto a me di questo personaggio non era tanto la vendetta quanto proprio il fatto che lei è custode della memoria, quindi lei non agisce, ma la sua mente è molto forte, quello che il fatto di essere custode della memoria è un valore, lei ricorda continuamente a tutti quello che è accaduto e chi è, e proprio per non dimenticare, perché non si dimentichi, e credo che questo sia un tema molto, molto attuale anche oggi, in questo sta secondo me una parte, non tutta, ma dell'attualità di Elettra. È un'Elettra partigiana la mia, un'Elettra che prende una posizione e rischia la vita pur di mantenerla, rinuncia a tutto pur di affermare il suo pensiero, il suo credo. Questo rende attuale il personaggio. Allora, abbiamo sentito che è un'Elettra di Ugo von Hofmannsthal. Marina Cavalli, però, diciamo che sia Sofocle, Euripide e anche Eschilo si sono tutti quanti cimentati dai drammaturghi greci riguardo a questo personaggio. Sì. Quali sono le differenze? Quali sono le sfaccettature? Ma guardi, appunto, noi Elettra la troviamo innanzitutto nelle coefore di Eschilo e poi nell'Elettra di Sofocle e nell'Elettra di Euripide. La differenza fondamentale è che in Eschilo è il personaggio della principessa cacciata ormai ai margini del palazzo che vive soltanto in funzione del padre. Quindi diciamo che questo senso del complesso di Elettra come donna che si esclude ad una vita di donna, di madre, di sposa, per rinserrarsi tutta nell'amore del padre, corrisponde più che altro all'Elettra eschilea. Nell'elaborazione di Sofocle e di Euripide si accentua semmai l'unione di Elettra col fratello Oreste. Il senso di dover agire in due nelle coefore di Eschilo, l'assassinio di Clitennestra e del suo amante Egisto è compiuto esclusivamente da Oreste. Invece in Sofocle e in Euripide è proprio l'unione tra i fratelli che porta all'azione, anche se poi la mano sarà di nuovo quella di Oreste, ma senza l'unione con Elettra Oreste non armerebbe la sua mano contro la madre. Quindi cresce da un lato questa indipendenza di pensiero di Elettra, che si pone come mandante di tutta l'azione, e si crea questa unione particolare tra fratelli, riconoscersi uguali, sapere che non si ha nient'altro al mondo se non la coppia di fratelli. Quindi da un lato è appunto il complesso di Elettra più antico, così come noi lo possiamo individuare, dall'altro però questa nuova forma di amore di fratelli che diventa anche questo uno dei temi importanti di tanta poesia del Novecento. Penso per esempio all'Uomo senza qualità di Musil, in cui questo riconoscere l'alius et idem tra fratello e sorella diventa fondamentale, e derivano tutti da questa coppia originaria Elettra Oreste. Quindi insomma, come al solito i greci poi ci danno il via per questi miti e questi archetipi che rimangono nella nostra vita fino ad oggi. Sentiamo un altro brano dello spettacolo. Noi due dobbiamo farlo. Che cosa, Elettra? Meglio oggi stesso, meglio stanotte. Cosa, sorella? L'opera che ricade su di noi perché lui non può più tornare e che non deve rimanere incompiuta. Che opera? Ora io e te dobbiamo uccidere quella donna e il suo uomo. Sorella, parli di nostra madre. Di lei e di lui. Noi dobbiamo farlo. Io? Sì, tu e io, chi altro? Noi due, con le nostre due mani. Al come penserò io, troverò il modo. E abbiamo sentito proprio il momento in cui si escogita questo assassino, anche quando Oreste non c'è più, Elisabetta. Sì, allora, sì. Il momento un po' clou qual è? Il momento che ti risulta difficile come attrice recitare quando appunto sei in scena? No, direi che non c'è nessun momento clou, è tutto clou, nel senso che la tensione deve rimanere, è uno spettacolo molto breve, dura meno di un'ora, però è molto teso e intenso e la tensione è fondamentale che rimanga, la concentrazione da parte di tutti gli attori fino proprio all'arrivo di Oreste, che è il personaggio chiave che risolve in qualche modo tutta la faccenda e Oreste arriva alla fine, quindi bisogna arrivare, per arrivare in buca bisogna arrivare fino lì e questo è, diciamo, la difficoltà tra virgolette, ma è anche la sfida e la bellezza di questo lavoro, è proprio riuscire a mantenere alta sia negli attori che negli spettatori la tensione fino appunto all'arrivo di Oreste. E all'arrivo di Oreste cambia tutto, il cane Elettra, perché così la chiamo io, nel senso che Elettra per me è proprio una delle prime immagini che ho avuto, anche grazie all'aiuto e il supporto fondamentale della professoressa Cavalli in questo lavoro, ed è lei anche che me l'ha sottolineata e me l'ha suggerita. Una delle immagini, delle prime immagini che ho avuto affrontando questo personaggio, questo testo, era Elettra come un cane, come il cane che quando muore il padrone rimane lì accanto e non se ne vuole andare. E quindi lo spettacolo, non solo per il mio personaggio, ma poi anche per gli altri, per Crisotemi, per Clitennestre, anche per Oreste, c'è stato un grande lavoro proprio sulla fisicità dell'animale. E il riconoscimento con Oreste non è un riconoscimento, diciamo, razionale. E neanche di sangue, è proprio un riconoscimento animale, loro si riconoscono perché sono simili, uguali nell'animalità, sono come due cani che si annusano e comprendono di far parte della stessa razza. Professoressa Cavalli, perché il mito di Elettra ha un successo minore di quello lì di Edipo? Cioè Edipo sposa la madre e uccide il padre, Elettra è comunque attratta da suo padre, però c'è sempre questo maschilismo anche nel teatro greco? Guardi, nel teatro greco si verifica un fenomeno abbastanza interessante, e cioè la profonda misoginia che è di tutta la tradizione greca antica, naturalmente. In realtà poi nel teatro si trasforma in personaggi femminili, soprattutto, che sono fondamentali, perché è il personaggio femminile che arriva sempre come momento di pericolosità all'interno di una situazione, che cambia la situazione, che porta comunque al degradarsi di uno stato di fatto, di un necessario degradarsi di uno stato di fatto, proprio perché il personaggio femminile è visto come pericoloso in sé, geneticamente pericoloso. C'è un filone dell'interpretazione soprattutto psicanalitica francese che individua in queste grandi eroine, Elettra, Medea, Antigone, identifica il femminile, cioè la capacità della femmina, della donna, di perdere tutto, di volontariamente perdere tutto ciò che ha, potere, figli, marito, famiglia, per realizzare se stessa. Elettra rientra in questa serie, rinuncia al suo destino di sposa e di madre e quindi rinuncia alla sua femminilità, e questo diventa il lato pericoloso di Elettra, quello che le permette poi di fare scattare la situazione nei confronti di Clitennestra e di Egitto, di Egisto, di portare al crollo di tutta la monarchia della città. Ecco, questo. Dicevo, la differenza con Edipo non è tanto che ci sia un maschilismo di fondo, è che il mito di Edipo va a toccare profondamente il tabù dell'incesto, nel senso che lo attua, quindi ci fa capire come in fondo l'incesto sia in qualche modo connaturato dentro di noi, mentre Elettra naturalmente non può arrivare all'incesto dato che il padre è morto prima. Edipo è più evidente come simbolo perché all'incesto ci arriva, ma entrambi i personaggi partono da una stessa matrice. Io posso amare soltanto chi è uguale a me, questa è la profonda somiglianza fra i due personaggi. Insomma, ringraziamo la professoressa Cavalli che finalmente ci ha spiegato perché poi Edipo ha avuto più successo, ma insomma poi stiamo parlando ovviamente comunque più popolare come mito rispetto ad Elettra. Noi ricordiamo al Teatro Verdi il progetto di Farneto Teatro, è in scena a Milano Elettra di Ugo von Hofmannsthal, e ricordiamo che è proprio una rassegna dedicata alle eroine del mito con Elisabetta Vergani. Fino a quando siete in scena, Elisabetta? Fino al 20 dicembre con Elettra. Quindi prosegue questo vostro lavoro e noi vi seguiremo. Grazie e buona rappresentazione di questa eroina greca. Cartellone. Vi si sta allungando il naso? Vi si stanno accorciando le gambe? Siete un po' dei Pinocchio? Beh, allora è il caso di andare a vedere Se devi dire una bugia, dilla grossa, una commedia di Rai Cuney, che è una commedia che si svolge in un albergo di lusso. C'è un gioco di porte, poi un po' di equivoci, colpi di scena. Insomma, Antonio Susini porta in scena 13 attori che accompagneranno il pubblico, si spera, in un crescendo di risate al Teatro Reims questa sera e domani di Firenze. Buongiorno Antonio. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, raccontaci un po' di che cosa parla questa commedia. Ma la commedia parla di porte che si aprono e si chiudono, di equivoci, di persone viste e non viste e che non si dovrebbero vedere. Cioè, è tipo questo nuovo teatro inglese, nuovo o vecchio, diciamo così, che noi cerchiamo di rappresentare e con il quale, con la nostra compagnia, abbiamo preso questo filone di rappresentazione, è un po' quello che era il genere vaudeville dei francesi, qualche cosa di innovativo per certi aspetti, che si basa tutto molto sul tempo, sul ritmo, sulla velocità di azione, un po' a passo con i nostri tempi, che sono molto veloci. Quindi un teatro in cui non ci si dovrebbe addormentare, diciamo così. Quindi non è un teatro metaforico, come va adesso molto di moda in Italia? No, assolutamente. È un teatro di azione, in qualche maniera, dove succede tutto il contrario di tutto, dove bisogna stare molto attenti, dove gli attori si muovono molto velocemente, ma a tempo di orologio, un ticchettio, dove le porte si aprono e si chiudono e anche gli attori si muovono come una lancetta dei secondi. Ecco, quindi in Italia, no? Io chiedo a te, perché tu hai scelto un commediografo inglese, quindi io ti chiedo il perché di questa scelta. Non abbiamo autori che fanno questo tipo di commedie? No, forse questa tipologia di spettacolo ancora oggi per noi, cioè bene o male questo testo è stato scritto negli anni 80, quindi è un testo tra virgolette vecchio, se si vuole, non è un testo contemporaneo, però forse noi in Italia stiamo arrivando oggi a questo tipologia di genere. Io mi sempre all'avanguardia. Sì, diciamo gli inglesi hanno una predisposizione per il teatro, comunque un'attenzione per il teatro che oggi come oggi purtroppo in Italia non è che esista così tanto. Noi abbiamo una grossissima cultura teatrale che dovremmo sviluppare e che in qualche maniera riuscire anche a portare avanti certe tipologie di scrittura che sarebbero nel nostro DNA, però chiaramente c'è grossa difficoltà per fare questo, quindi ecco, siamo in qualche maniera un pochino indietro. Dobbiamo andare a vedere questi autori inglesi che sono anche dei precursori, hanno una storia grandissima gli inglesi a livello teatrale, quindi quello va vanta da Shakespeare e Marlowe, no? Questa storia. Però indipendentemente da questo, Antonio, non sembra che il teatro, visto che stiamo parlando di teatro, drammaturgia giovane eccetera, il teatro italiano si è un po' perso tra il teatro metaforico, che è un po' stufato, i monologhi, che sono bellissimi alle volte, però si fanno poi per motivi economici, sì. E poi magari invece scivola subito sul cabaret, manca proprio la commedia vera. Sì, in effetti questo è vero, cioè si è perso un po' il gusto di mettere in scena il vero spettacolo, quello che io intendo, insomma, uno spettacolo vuol dire raccontare una storia, no? Cioè quindi in qualche maniera far vivere una storia di persone che si muovono sul palcoscenico. Ecco, questo si è un po' perso, un po' per la difficoltà anche economica che in tutte le compagnie vertono, quindi è difficile mettere anche 13 attori in scena, no? Che si muovono, quindi è molto, molto complicato. E anche perché in qualche maniera siamo un po' passati allo stile, diciamo, televisivo, dove è molto più semplice mettere una persona sola che in qualche maniera fa un talk show, ma questo non è spettacolo di prosa, questo non è teatro nel vero senso della parola, è sempre una forma di spettacolo, però che non è un raccontare una storia, no? Ciò che dovrebbe fare un attore o un regista è quello di raccontare una storia sul palcoscenico, far vedere agli spettatori quello spaccato di vita di quella situazione, no? E invece molto difficilmente viene fatto questo, a parte, diciamo, le compagnie primarie. Sì, vabbè, ma loro fanno Shakespeare, fanno Pirandello, fanno Eduardo, però poi alla fine la nuova drammaturgia non la fanno. Allora, se devi dire una bugia, dilla grossa. Torniamo un attimo allo spettacolo. 13 attori, sì. Una commedia degli errori, poi alla fine, no? Degli errori, sì, anche. Una commedia degli errori, cioè degli equivoci, insomma, colpi di scena. Chi sono i protagonisti? Chi c'è, il receptionist? Allora, innanzitutto mi preme ricordare la persona che mi ha aiutato e che ha fatto regia insieme a me, che è Cristina Trapani, e poi lo scenografo, che è Luca Bramanti, uno scenografo che proviene da una storia antichissima fiorentina e anche italiana. E poi, diciamo, i personaggi principali sono mia zia, che è Rosanna Susini, e poi Alessandro Dell'Anno, Leonardo Cammucci. Questi, diciamo, sono in qualche maniera i personaggi su cui si muove lo spettacolo, ma tutti i personaggi sono dei personaggi importanti, perché in qualche maniera questi personaggi vivono di luce propria e si intersecano insieme agli altri. Io ti lascio perché sento che ti squilla il cellulare, per cui devi assolutamente andare in scena. E ricordiamo, questa sera al Teatro Reims, 5-6 dicembre, se devi dire una bugia, dilla grossa, direi Cune, in regia di Antonio Susini, 4 risate con una commedia d'azione. Giorgio, che ha accompagnato la nostra giovinezza, e beh, insomma, erano i meravigliosi anni 80. E noi però Boy George e i Culture Club li possiamo risentire al Teatro Sala Umberto, perché fino al 13 dicembre è in scena una commedia con musiche, Metti in salvo il tesoretto, con Gianrico Tedeschi. Buongiorno Gianrico. Buongiorno signora, come sta? Bene, lei? Bene, bene. Il tesoretto, che cos'è il tesoretto? Perché bisogna metterlo in salvo e soprattutto in quanto consiste, parlando di soldi? Il tesoretto perché facciamo un'allusione a quello che succede oggi. Noi abbiamo sentito parlare, no, tempo fa del tesoretto, è perché portiamo un plauto ai nostri tempi in questo momento, e con quelle vicende che stiamo vivendo. Quindi un plauto in versione Tremonti, versione dell'economia, ministro Tremonti. Beh, un pochino e anche di più, in versione tutto, in versione della società e del momento in cui viviamo. Un plauto poi curioso, che io lo faccio diventare futurista. Perché? Pure. Sì, futurista perché così inventore di parole nuove, di diminutivi strampalati, di aggettivi, sostantivi usati proprio come puro suono, col gusto di dire la parola puro suono e di divertirsi con questo. E questo è un aspetto proprio tipico del futurismo. Euclione, lei interpreta Euclione, no? Un uomo senza tempo, un po' l'avaro per eccellenza. Euclione che cosa dice? Ci può dare un assaggio di questi aggettivi, un po', questi neologismi? E anche lui l'abbiamo avvicinato un po' a quello che succede oggi. Insomma, oggi lo domando a lei e lo domando anche a chi ci ascolta. È vero o no che viviamo in un momento in cui siamo preoccupati, diciamo, domani mattina lo troveremo ancora il nostro conto in banca? O ci sarà? Oppure succederà qualche cosa? Siamo sicuri di quello che abbiamo? Eccetera. Ecco, queste paure, queste ansie, le ritroviamo oggi attraverso questo plauto, ripeto, che diventa un commentatore di quello che vi stiamo vivendo. Non sappiamo se ritroveremo il nostro conto, perché alle volte, almeno è successo purtroppo negli Stati Uniti, che hanno chiuso le banche, è dovuto subentrare lo Stato, ci sono stati vari fallimenti, però in Italia per fortuna ci siamo assolutamente salvati. Questo è vero. Però c'è la paura, però Euclione ha la pentola piena di monete d'oro. Certo, e ha una paura terribile di perderla e fa di tutto per non perderla. Non solo, in questo Euclione della Ulularia manca completamente un atto, cioè un atto è andato perduto. Dai pochi versi che rimangono si immagina che la cosa finisca in bellezza. E invece qui ci abbiamo, perché è un po' un plauto visto anche dagli attori che prendono parte, che condividono quello che diciamo. Come sarà il finale? Che fa? Invita il ministro dell'economia Giulio Tremonti per scrivere il finale insieme? No. Un finale è che assolutamente non ci accontentiamo di fare un finale di quelli... E vogliamoci bene alla Goldoni, ma in questo caso diventa tremendamente sinistro e addirittura direi cattivo, perché baratta la felicità della figlia, oppure il matrimonio della figlia che la vuol dare a un servo che è innamorato di questa figlia, con un documento che gli permette di conservare il suo tesoro. Insomma, diventa egoista e avaro fino all'ultimo momento. Quindi, insomma, un monito. Allora, ricordiamo che fino al 13 dicembre Gianrico Tedeschi è in scena al Teatro Sala Umberto di Roma con Metti in salvo il tesoretto. E allora consigliamo ai politici che in questo momento a Montecitorio stanno discutendo di finanziaria durante questo weekend di andare al Teatro Sala Umberto, che sta proprio lì dietro. Giusto, Gianrico? Sì, certo. Allora aspettiamo tutta la commissione bilancio di Montecitorio al Teatro Sala Umberto per vedere che cosa succede. Metti in salvo il tesoretto. Cartellone. E adesso andiamo in Giappone, o almeno andiamo al Palazzo Reale di Milano, che ospita la mostra Giappone, potere e splendore 1568-1868. La mostra apre il 7 dicembre e chiude il 7 marzo. È curata da Giancarlo Calza, propone numerosi capolavori provenienti dai più prestigiosi musei giapponesi, oltre 200 opere e alcuni tesori nazionali che illustrano due delle fasi storiche più importanti della storia del Giappone. E Adriana Fracchia ha sentito il curatore Giancarlo Calza. Dunque, questa mostra ha per scopo di far vedere come il Giappone sia diventato una nazione moderna più o meno quando lo diventarono i paesi dell'Europa, cioè da metà del 500 a metà dell'Ottocento. Contrariamente a quanto si pensa, cioè il Giappone non si è modernizzato con la occidentalizzazione dalla seconda metà dell'Ottocento, ma aveva degli istituti sociali molto simili ai nostri. E quindi questa mostra percorre questi attraverso degli aspetti che maggiormente comunicano all'Occidente la peculiarità del Giappone, però anche questa similitudine con noi, tale per cui il Giappone dei paesi asiatici, anche se è il più lontano dall'Occidente, è in realtà quello con caratteristiche più occidentali, da sempre. Ecco, insomma, il Giappone è sempre, diciamo, soggetto prescelto per molte mostre ultimamente, anche a Milano. Tra l'altro in questo momento, in contemporanea a questa mostra, ci sarà un'altra mostra di una grande artista giapponese al PAC. Stiamo parlando di arte contemporanea, evidentemente. Però, insomma, quindi, diciamo, è un paese che offre molte occasioni artistiche interessanti. Sì, indubbiamente ci sono alcuni aspetti poi che attraggono l'Occidente nella cultura e nell'arte giapponesi, in modo particolare dagli impressionisti all'Art Nouveau, all'Art Déco, all'influsso dello Zen nella action painting e nell'arte informale. Quindi ci sono tantissimi spunti. Uno dei più interessanti è proprio quello che apre la mostra e che è il rapporto con la natura. I giapponesi hanno un rapporto particolare con la natura che gli viene dalla loro tradizione più antica di religione animistica, legata appunto a mantenere un costante sentimento di unione tra l'uomo, la natura intesa in senso vegetale, animale e anche minerale, e non solo, ma anche con i paesaggi, tutti quanti intrisi di sentimento del divino. E quindi questo aspetto così particolare nella tradizione, alla quale anche noi in Occidente, dopo secoli, anzi millenni, di utilizzazione strumentale della natura ci stiamo sensibilizzando, viene proprio opportuno. Non è proprio l'albero di Natale tradizionale, l'abete, quello lì alto con tutte le decorazioni natalizie, non so, con le calze appese, piene di dolciumi. No, quest'anno Trafalgar Square sta ospitando qualcosa di diverso. Perché? Perché ci si avvia verso l'appuntamento importantissimo di Copenaghen, la conferenza sul climate change, sui cambiamenti climatici, e allora nella piazza di Londra non c'è il tradizionale albero natalizio, ma tronchi di una foresta fantasma. Allora, The Ghost Forest ci racconta di cosa si tratta Giorgia Scaturro. La visione è spettrale e al tempo stesso maestosa. Uno accanto all'altro, tronconi di alberi denudati da ogni foglia. Le radici rinsecchite, come contorte nella sofferenza, compongono forme ipnotiche e sembrano sussurrare la loro storia nelle orecchie dei passanti. Una storia di deforestazione. La Foresta Fantasma è l'installazione in arrivo al Thorvaldsensplatz di Copenaghen, in Danimarca, dal 7 al 18 dicembre, in coincidenza con l'importante vertice dell'ONU sui cambiamenti climatici. In mostra, Dewa, Wawa, Danta e altre 7 specie di alberi provenienti dal Ghana, che negli ultimi 50 anni ha subito il 90% di deforestazione, principalmente a causa di abbattimenti illegali. Come spiega la curatrice e l'artista britannica Angela Palmer, gli alberi sono stati presi dalla foresta umida ad ovest del Ghana, che è una concessione forestale sostenibile. Alcuni sono caduti spontaneamente, altri sono stati tagliati da un'area di foresta appositamente designata per gli abbattimenti, in modo da facilitare l'industria di legname, ma dove poi gli alberi vengono ripiantati. Angela Palmer ci spiega come le è nata l'idea di farne un'installazione. Giusto lo scorso anno parlavo con Andrew Mitchell, lo scienziato che da 30 anni si occupa di foreste tropicali, e mi ha spaventata con le statistiche. Solo l'idea che ogni anno scompare una foresta tropicale due volte più grande del Belgio mi ha messo ansia e come artista ho pensato che rappresentare questo fenomeno visivamente forse avrebbe potuto avere più impatto delle analisi scientifiche che spesso lasciano le persone indifferenti. Palmer ha scelto di far partire il suo progetto portando questa vera foresta tropicale in una delle piazze al centro del mondo, Trafalgar Square a Londra, che negli ultimi 200 anni è stata l'epicentro dell'industrializzazione. Se guardiamo in su, la colonna di Nelson, che è alta 51 metri, ha l'altezza media di questi alberi nelle foreste. Alcuni, come il Big Daniel e il Wawa, sono addirittura 10 metri più alti della colonna di Nelson. Vorrei riuscire a coinvolgere la gente e fargli sentire tutta la forza di questi alberi, spiega Palmer. Così, forse, potranno cominciare a fare pressione su coloro che prendono le decisioni. La gente, sprona Palmer, può davvero fare qualcosa di positivo per le foreste tropicali. Sul sito di ghostforest.org si legge che le ultime foreste pluviali, dove vivono circa il 40% delle specie animali e vegetali di tutto il mondo, potrebbero scomparire nei prossimi 40 anni. E adesso veniamo a due appuntamenti da non perdere. In scena al Teatro 7 di Roma, Passepartout, 100 artisti per una jam session. Massimiliano Bruno e Sergio Zecca ripresentano l'appuntamento annuale che, ricordiamo, devolve gli incassi in beneficenza per l'Africa. Al Teatro 7 ogni sera una performance diversa. E poi vogliamo anche parlare dell'apertura questo dicembre del Museo dell'Andrangheta di Reggio Calabria. È importantissimo perché è proprio un'apertura con una mostra fotografica dal titolo Silenzio e Memoria a cura di Adriana Sapone. Ricordiamo, Museo dell'Andrangheta di Reggio Calabria. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, il nostro Nicola Accardo che è andato a curiosare per noi a teatro questa settimana, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a cartellone@radio24.it. Buon ponte dell'Immacolata a tutti.